Bene, direi che cominciamo, poi quando arriverà il professor Ferrara, insomma. E, dunque, io sono molto contenta di presentare alla Fondazione Basso il libro di Laura Ronchetti, che trovo un libro molto importante, quindi ovviamente l'invito che è stato fatto ai relatori, che ringrazio moltissimo per aver subito accettato, e all'autrice per presentare questo libro è un invito non solo di carattere, come dire, amicale, ma sicuramente nella qualità di studiosa di Laura Ronchetti. Prima di lasciare la parola appunto ai relatori, direi soltanto brevemente due cose. Appunto, come ho detto all'inizio, io ho apprezzato molto questo libro, benché sia una storica e non una giurista, perché secondo me assolve a due compiti molto importanti. Innanzitutto direi quello di compiere una critica puntuale e sicuramente ben documentata, in alcune parti anche di carattere storico, agli attuali processi globali che hanno messo, appunto, come Laura ci spiega, in crisi una nozione di diritto capace di porre limiti alla concentrazione del potere. Laura analizza molto bene le istituzioni della globalizzazione più importante e soprattutto appunto porta avanti una critica, dicevo, molto puntuale rispetto al fatto appunto che queste istituzioni della globalizzazione in qualche modo hanno messo in scacco i diritti costituzionali subordinandoli alle regole dell'ex mercatoria. Io ho anche appunto apprezzato molto il libro di Laura perché secondo me si parla con un altro libro molto importante, che è quello recentemente uscito di Saskia Sassen, che è questo libro Sociologia della globalizzazione, proprio perché entrambe indicano appunto dei punti nodali, fondamentali del rapporto tra globale e locale e dal tempo stesso l'importanza del ruolo che giocano gli stati-nazione. Dall'altra parte, dicevo, assolve a due compiti importanti proprio perché traccia anche un paradigma sul quale rifondare una nuova, direi una rinnovata, se non altro, convivenza che, come ci dice Laura Ronchetti, non sia solo una mera compresenza tra indifferenti, ma sia appunto qualcos'altro. Una convivenza democratica, ci spiega, fondata sul rispetto, sul senso di responsabilità e soprattutto su questo paradigma del limite, su cui magari poi sicuramente i relatori interverranno. Infine, un'ultima considerazione che mi fa tanto più piacere presentare oggi qui questo libro nella casa di Basso, proprio perché nozione anche di diritto che c'è nel libro di Laura Ronchetti è sicuramente quella che Lelio Basso aveva in mente quando appunto scrisse l'articolo 3 della Costituzione italiana e intendendo appunto il diritto, l'ordinamento giuridico non solo come il riflesso della società, ma certo della società, ma nel suo insieme, nelle sue contraddizioni e quindi nella natura promozionale del diritto e nella capacità del diritto di imprimere delle svolte, dei cambiamenti profondi a livello sociale. Ecco, io credo che questo sia il lascito più importante di Lelio Basso ed è qualcosa che sicuramente nel libro di Laura Ronchetti è presente, quindi tanto più sono molto contenta che questa presentazione avvenga qui. Lascerei subito la parola a Enrica Rigo, che appunto ringrazio per aver accettato l'invito. No, sono io in realtà a ringraziare voi, sia Laura per avermi invitato, sia tutta l'organizzazione e gli altri relatori. Sono anche un po' emozionata, insomma, di essere qui. E devo dire che, per non togliere del tempo, inizio subito. Parlare per prima mi dà una possibilità, che è quella di parlare del libro, non solo parlare sul libro, come spesso si fa durante le presentazioni. E io ho individuato più o meno tre argomenti che mi hanno colpito, perché sarebbe impossibile raccontarlo tutto. Innanzitutto voglio dire che questo, secondo me, è un libro importante perché affonda le mani nel presente e lo fa in maniera assolutamente intelligente, non banale, perché parlare anche di questi temi che sono anche inflazionati a volte come argomenti, soprattutto in altre discipline, non tanto appunto, per quanto riguarda la scienza giuridica, in maniera non banale, non è semplice. E perché dico che è un modo assolutamente non banale quello che Laura assume, il punto di vista che ci dà sulla globalizzazione? Perché dalla lettura che ne ho ricavato io, secondo me Laura riesce a rovesciare alcuni assunti che vengono dati spesso per scontati rispetto a questo ordine globale. E il primo assunto che a me sembra rovesciare questo libro è quello che l'ordine economico del neoliberalismo sia un ordine senza regole. No, spesso noi siamo tentati di dire, la parola stessa, neoliberalismo, che la liberalizzazione dei mercati sia anche una liberalizzazione dai vincoli giuridici. E quello che invece secondo me Laura mostra nella sua analisi delle forme giuridiche della globalizzazione è proprio il contrario. Cioè come si tratti invece di un ordine giuridico e di un ordine giuridico rigidissimo. Cioè gli esempi che Laura porta sono moltissimi e basta pensare a quello, ad esempio, delle regole sulla tutela degli investimenti esteri, che crea dei veri e propri privilegi, no? Per l'investimento estero in determinati paesi, ad esempio Laura porta l'esempio del NAFTA, rispetto all'investimento appunto locale, e quindi permette anche tutta una serie, insomma, di conseguenze e di venir meno di tutele giuridiche. Allora, rispetto a questa, io non sono una costituzionalista, quindi insomma spero che voi mi perdoniate se a volte, diciamo così, porto l'argomentazione su altre basi. Questa idea, no, della capacità di Laura di rovesciare appunto questo assunto per cui il neoliberalismo significa senza regole, mi faceva venire in mente proprio anche la sconfessione di alcune parole di Schmitt, che sono abbastanza famose, quando lui ci parla del progresso e della libertà economica, e lui dice: consistono nel fatto che le forze produttive divengono libere, e in tal modo si incompia un tale aumento della produzione e dell'appropriazione, no, un tale aumento, scusate, della produzione, che l'appropriazione è a termine e la divisione non è più un problema. Ecco, secondo me questa previsione che Schmitt utilizzava per criticare sia l'ordine liberale sia quello marxista, non si è mai avverata in realtà. Cioè anche l'ordine liberale si fonda, la libertà dei mercati, su delle regole rigide che forse non sono più regole che noi eravamo abituati, no? A cui eravamo abituati, come quella ad esempio della distinzione tra piano pubblico e piano privato, ma sono altrettanto rigide. E il secondo assunto che a me sembra rovesciare questo libro è quello appunto che spesso ci viene dal senso comune, che la globalizzazione determini, ossia anche un'omogeneizzazione dello spazio, dello spazio giuridico. Cioè, quello che a me sembra di capire dall'analisi che ne fa Laura è che lo spazio giuridico globale non è assolutamente uno spazio omogeneizzato, è piuttosto uno spazio gerarchizzato, ma c'è una bella differenza in questo, no? E sono proprio queste gerarchie degli spazi che fanno sì che determinati privilegi possano essere appunto costituiti e mantenuti. Non so se do delle letture sbagliate rispetto a quello che dici, però anche ad esempio l'esempio della concorrenza tra gli ordinamenti giuridici e quindi la possibilità per l'impresa di scegliere il diritto da cui essere governato, quello che ad esempio nell'ordinamento europeo è il principio di equivalenza, no? Non è un'omogeneità degli spazi, anzi si basa proprio sul fatto che gli spazi giuridici sono gerarchizzati in maniera diversa. Allora anche qui quello che mi faceva venire in mente, piuttosto appunto che uno spazio che diventa omogeneo, è piuttosto l'espansione e il percorso che il diritto ha avuto nell'ordine coloniale. Basta pensare al regime delle capitolazioni. no? Per cui ci si portava dietro dalla metropoli la propria legge di privilegio. Però anche in questo caso, anche qui mi permetto qualche altro riferimento, la direzione mi sembra opposta, la direzione del suo sviluppo. Qui vorrei fare riferimento a un autore che non so quanto sia noto tra i giuristi, che è Jonathan Plamenac, un filosofo montenegrino, che lui descrive in maniera, no? In maniera secondo me anche molto efficace, come quando l'ordine coloniale da un ordine marittimo di conquista è dovuto diventare un ordine territoriale, cioè si è instaurato nei territori d'oltremare, ha avuto bisogno di esportare le stesse corti e gli stessi diritti europei, di creare uno spazio comune. E quello che Plamenac mette in evidenza in maniera interessante è che proprio questa omogenizzazione che è avvenuta al di là, nei territori d'oltremare, dello spazio giuridico, che ha permesso di, lui dice, rovesciare gli ideali dell'Occidente contro l'Occidente stesso e di insomma, creare le condizioni per quelle che sono state poi le lotte di liberazione coloniale. E questo, diciamo, mi sembrava un secondo aspetto che in maniera assolutamente non scontata il libro di Laura mette in evidenza molto bene. L'ultimo aspetto, e su questo vado un po' più veloce, il terzo assunto che Laura rovescia, secondo me, è quello del rapporto tra diritto, tra diritti, anzi, ed eccezione. In uno, forse anche dei capitoli che legano la prima parte più analitica a quella seconda di indagine teorica del libro, Laura definisce i diritti fondamentali come le eccezioni a quest'ordine economico globale che si va ad imporre. E perché anche in questo caso parlo di un assunto rovesciato? Ne parlo chiaramente rispetto a una lettura, no? che va diciamo un po' per la maggiore e anche forse un po' abusata dell'eccezione schmittiana, cioè della sovranità come appunto decisione sull'eccezione. Abusata perché? Non tanto perché sia sbagliata, ma secondo me perché spesso è inflazionata, cioè spesso si parla di questi spazi appunto di eccezione del diritto, quindi di un ritrarsi del diritto. Gli esempi che vengono portati sono quelli più frequenti, vanno da Guantanamo ai centri di detenzione per migranti, eccetera, come spazi di assenza del diritto. E vabbè, intanto viene da chiedersi qual è la via d'uscita se noi consideriamo sempre l'eccezione come paradigma permanente del potere. E poi, in secondo luogo, che cosa questo ci dice sulla realtà quando poi non è in grado di dirci, di descriverci quali sono invece le forme di precipitazione dei poteri che si hanno in questi spazi, perché non sono spazi di assenza di potere, ma anzi. E allora a me piaceva, anche se Laura quando si riferisce ai diritti non si riferisce direttamente all'eccezione nel senso schmittiano, però mi piaceva questa analogia e questo richiamo. E ora, diciamo così, vorrei passare appunto da questi che sono secondo me tre punti di forza che il libro mette in evidenza ad alcuni punti critici, nel senso proprio delle fratture che Laura evidenzia rispetto all'ordine giuridico e che vale la pena forse mettere un po' sul piatto anche per il dibattito, se poi, come immagino, ce ne sarà il tempo. Quindi la prima crisi che Laura mette in evidenza è quella della Costituzione come limite, di cui ha parlato appunto anche Chiara. E la Costituzione come limite, sappiamo bene che insomma, come limite al potere e quindi come possibilità di diffondere il potere tra i consociati è una caratteristica tipica della Costituzione. È quello che Laura dice nutre la Costituzione. E però qui non il tentativo, ma la possibilità di rileggere in positivo quest'idea del limite costituzionale viene messa in correlazione appunto al problema del riconoscimento. Cioè l'accezione positiva del limite si ha, ci dice Laura, quando questo limite implica un riconoscimento reciproco e quindi fonda il principio di uguaglianza. Io da questo punto di vista vorrei provare a mettere sul piatto un problema, cioè la questione del riconoscimento come riproposta di una giustizia basata sulla reciprocità e quindi una giustizia basata sullo scambio. Cioè non è un caso, secondo me, che ad esempio autori come Rawls parlino così tanto del riconoscimento proprio in questo senso. E qui il problema che io mi pongo è: cosa succede se dall'altra parte non abbiamo nulla, non abbiamo nulla da riconoscere? Cioè, ad esempio, anche qui, tanto per, io non voglio andare a rimanere su un piano solamente concettuale, no? Se noi pensiamo alla definizione e alla giustificazione che ci viene sempre data della proprietà, la proprietà è appunto basata sul riconoscimento, il diritto di proprietà. Io ti riconosco come proprietario in quanto tu riconosci la mia proprietà, e qualcuno non a caso ha detto il problema si pone perché nessuno ha pensato che uno dei due possa non essere proprietario in misura tale da fondare il riconoscimento reciproco. Allora, questo problema, diciamo, che è un problema che poi si ripropone anche nella visione spaziale che Laura dà del diritto, e qui di nuovo mi viene in mente Schmitt. Ad esempio Schmitt questo problema secondo me ce l'aveva in mente in maniera molto precisa e anche molto drammatica, quando lui ci parla dello spazio, ad esempio nel Nomos della Terra, dello spazio delle conquiste coloniali oltre la linea che divide il vecchio dal nuovo mondo come spazio libero e quindi spazio solamente di rapina, perché non c'è nient'altro da riconoscere, pone in evidenza proprio questo problema. La giustizia dello scambio, la giustizia basata sul riconoscimento, è una giustizia appunto di scambio, che quando non hai nulla dall'altra parte casca. Però, diciamo, non la voglio assolutamente. E quindi lo volevo appunto porre all'attenzione del dibattito e anche magari a Laura. E nonostante questo, io sono convinta che quello della territorializzazione del diritto, cioè l'altra crisi, grossa crisi che attraversa tutto il libro di Laura, è quello appunto del problema della territorialità del diritto, sia un problema concreto, un problema vero, reale, no? Anche qui, per spiegarlo in termini semplici, mi rifaccio sempre a Schmitt. C'è uno scritto negli anni 40 dove lui dice, quello sui grandi spazi, dove lui fa questa critica al diritto liberale come un diritto che confonde l'universale con l'ubiquo, no? Quello che anche Laura dice, lo spazio senza nessuna qualificazione. Quando noi non diamo nessuna qualificazione allo spazio, implementare un diritto, riconoscere un diritto in un posto o nell'altro risulta assolutamente equivalente. Quindi io posso deforestare tranquillamente un pezzo di foresta e mettere chi abitava lì in una riserva, perché tanto il suo diritto ad avere uno spazio per vivere è comunque rispettato. Quindi io mi rendo assolutamente conto di questo problema che Laura prende in maniera molto seria e da cui ricostruisce, appunto, prova a ricostruire anche tutta la parte propositiva del suo libro. E l'altro però punto critico che secondo me si possiamo mettere in evidenza è quello del far coincidere la crisi della territorialità come crisi della delimitazione territoriale. Una delle tesi del libro è che appunto la delimitazione del territoriale, il fatto di avere dei confini sia un fatto insuperabile, perché è uno dei limiti fondamentali della concentrazione del potere. Allora io qui, mi sto avvicinando a concludere, non vi preoccupate, pongo un altro problema. Cioè, è davvero la delimitazione territoriale il limite al potere, cioè il fatto che ci siano confini reciproci, o nella storia della sovranità moderna è stato piuttosto il diritto riconosciuto ai consociati di disporre dello spazio, di disporre liberamente dei territori, a porre il limite al potere? Anche qui mi riferisco, faccio alcuni esempi, ci sono ad esempio delle pagine bellissime di Weber sulla città, che forse abbiamo letto tutti, dove lui riconosce, descrive, no, la nascita della sovranità moderna, in qualche modo riportandola al concetto della città, e descrive lo spazio della città come lo spazio libero, libero dal dominio del principe. Chiaramente a lui interessava, no, di definirlo anche come spazio scambiabile. Però questi due limiti, no? Questi due differenti limiti, da una parte quello dello Stato sul suo territorio, che ha bisogno di una delimitazione, e dall'altro quello dei cittadini a disporre di un territorio, secondo me devono sempre essere tenuti insieme in maniera dialettica, e altrimenti appunto rischiamo di perderci una delle due, sicuramente dei due significati di questo diritto, della territorialità del diritto, scusate. E da questo punto di vista, secondo me, Laura dice una cosa molto bella a un certo punto del libro, proprio su questo problema, quando individua la privatizzazione dello spazio come fondamento del sistema che anche di corruzione, se vogliamo così dire, del diritto costituzionale. Allora, perché ho tirato fuori questa questione appunto della privatizzazione dello spazio e un po' anche, no, quest'idea che sempre corre insieme, perché poi è lo spazio pubblico a garantire quello privato, insomma, non c'è nulla da fare da questo punto di vista. Perché secondo me serve anche da legame all'ultimo punto che mi premeva di porre all'attenzione la discussione, che è quello, in realtà un'altra delle tesi centrali di Laura è quella della Costituzione come controcondotta. Ne parlo alla fine, anche se lei in realtà introduce tutta la parte teorica del suo libro. E Laura si rifà a un'idea di Foucault per definire questa Costituzione come controcondotta, nel senso della Costituzione come legge che si contrappone al potere di fatto, e quindi come appunto la legge dei consociati che si contrappone a un potere che viene dall'alto. Allora, perché secondo me questo è un altro argomento molto importante, perché a volte, quando poi lo descrivi, questa Costituzione come controcondotta, a me sembra che in realtà quello che tu stai descrivendo sia un potere costituente più che un potere costituito. E allora, anche qui, noi abbiamo la stessa ambivalenza, no? Che abbiamo rispetto appunto al territorio come limite esterno e come disponibilità dei consociati, la stessa ambivalenza, la stessa necessità di mandarli avanti insieme ce l'abbiamo sicuramente anche sul potere costituente rispetto a quello costituito. Però mi sembra a volte che, ecco, e questo vorrei chiederti, e magari se riusciamo a recuperarlo, nel libro prevalga un'idea di Costituzione che si rifà più, ecco, alla tradizione magari giuspubblicistica tedesca, in cui tutto il potere costituente alla fine viene sussunto nelle forme dello Stato, E invece forse in un momento proprio di crisi come questo sarebbe forse il caso di recuperare anche quell'idea, no? Rivoluzionaria del potere costituente, che è un potere che non è, diciamo così, assoggettabile alla temporalità dell'ordinamento giuridico. Un'altra cosa molto importante che tu dici a un certo punto del libro è che le costituzioni sono un progetto presente che si fa futuro. E a me viene in mente proprio, no, tutta una tradizione che, anche se non è stata poi magari prevalente, che ha posto questo problema, no, anche della necessità di rinnovare le costituzioni. E l'ultimo, diciamo così, dei temi che perché questo tema della mi interessava introdurre questo tema della temporalità accanto a quello della spazialità, perché secondo me il tema della temporalità accanto a quello della spazialità è un altro dei temi fondamentali per poter definire la comunità, cioè quella comunità che Laura evidentemente nel suo libro rimette, ripropone al centro come condivisione, e condivisione dello spazio, condivisione del territorio, che mi sembra di capire, e a un certo punto Laura lo dice anche in maniera esplicita, è sempre un territorio, uno spazio che non può essere che costruito artificialmente, no? Nel significato più nobile di questo tema, di questo termine, cioè uno spazio che non è dato, ma è continuamente ricostruito e quindi anche riscelto. E qui concludo, forse ho messo troppa carne al fuoco, però vi ringrazio. No, benissimo. Grazie mille, saluto il professor Ferrara, benvenuto. E passo la parola al professor Luciani. Cercherò di essere molto, molto sintetico. Questo libro mi ha tormentato, diciamo. Te ancora di più. Perché insomma, no, veramente ne abbiamo visto la genesi, insomma, ecco, è stato, ma però insomma ci siamo divertiti, ovviamente, altrimenti non saremmo qui. Però c'è un problema nel fatto di aver seguito la genesi del libro, che mi erano venute in mente tante idee leggendo la prima stesura che avevo diligentemente annotato, eccetera, e poi questa prima stesura chissà che fine ha fatto. E ho smarrito anche queste annotazioni, però mi sono rimaste le impressioni di fondo e alcuni punti sui quali vorrei richiamare la vostra attenzione. Tra le impressioni di fondo, la prima è questa. Io credo che il merito principale di questo volume stia nel fatto che sono messe le mani nella pasta del diritto positivo. Non c'è soltanto un ragionamento teorico generale sui fenomeni di globalizzazione, sul rapporto fra deterritorializzazione, delocalizzazione, sorte dei diritti, ma si va a vedere come funzionano le cose. Ovviamente è un primo approccio, perché non avremmo dovuto avere un trattato in plurivolumi, insomma, sull'assetto del nuovo diritto della globalizzazione, ma alcune riflessioni e anche informazioni, insomma, sul funzionamento concreto delle istituzioni della globalizzazione testimoniano del fatto che poi i giuristi, quando lavorano con i loro strumenti, anche con analisi dello stesso diritto positivo, ottengono risultati interessanti. Il problema semmai è quanto questo diritto sia positivo, quanto sia positum, perché c'è effettivamente, rispetto al diritto positivo col quale siamo abituati ad avere a che fare, in questo caso l'elemento della positività è più sfuggente spesso e volentieri. È vero che noi diceva prima Arrigo, è un ordine giuridico rigidissimo, ma questo ordine giuridico rigidissimo qualche volta, diciamo, utilizza gli strumenti tradizionali del diritto positivo, qualche altra volta invece utilizza strumenti diversi, che noi riusciamo molto, molto male, noi giuristi intendo, molto male a dominare. E il secondo punto che mi ha colpito è stata la, direi scontata ovviamente, ma pur sempre molto visibile, attenzione per il pensiero di Carl Schmitt. Da questo punto di vista, c'è qualche sfumatura o più di una sfumatura di differenziazione da quello che io personalmente penso e alcuni sviluppi della riflessione di Laura Ronchetti. Ad esempio, ecco, io sono abbastanza convinto che degli scritti schmittiani Nehmen, Teil und Weiden sia uno dei più deboli, personalmente, penso. Io penso l'opposto. No. E questo è il bello del... te l'ho detto a tempo. Lo so. Io continuo a pensare, lo sai che sono tosto. Mentre invece penso che se uno dei più deboli dal punto di vista delle prospettive che schiudeva, e qui sono d'accordo con quello che ci diceva prima Ricarigo, perché effettivamente alcune di quelle ipotesi, insomma, non si sono realizzate, mentre invece il rapporto tra sovranità e territorio che viene analizzato non solo in terra e mare, ma soprattutto nel nomos della terra, insomma, nel nomos de red, no, non me l'hai mai regalato, l'hai promesso. No, c'è una vecchia polemica, insomma, diciamo, perché la mia biblioteca è accessibile a tutti, esiste nella mia biblioteca una copia tedesca del Nomos der Erde, non esiste la copia italiana che mi aveva stata promessa, Gianni Ferrara non è mai arrivata a questa copia. Comunque, fortunatamente, diciamo, possiamo utilizzare la versione di Dunker Humblot, e utilizziamo quella. Ma confidiamo che prima o poi, sarà ritrovata da qualche parte, chi lo sa. Allora, nel Nomos della Terra, ecco, proprio è la questione della Erde che mi interessa moltissimo, insomma, cioè proprio l'idea della terra, non soltanto del territorio, ma l'idea della terra, non sono tanto i Gebiete, diciamo, i territori che mi interessano, la riflessione schmittiana, quanto proprio la terra, il rapporto con la terra. Qui la materialità del rapporto con la terra, e credo che lì Schmitt vada veramente alla radice di alcuni problemi che sono analizzati in modo inesausto, insomma, dal pensiero occidentale da 2000 anni a questa parte. E qui faccio, per chiarire a me stesso quanto siano importanti, faccio un salto ad un autore che è così, apparentemente così fondamentalmente distante da Schmitt, cioè Locke. In Locke, ad esempio, la proprietà, la legittimazione della proprietà privata è fondata non tanto sul riconoscimento, ma è fondata sul lavoro. E questo dico, come mai, insomma, in Locke la proprietà è fondata sul lavoro. Stai disciplinato, ma sei sempre indisciplinato, è una cosa che non è possibile. È fondata sul lavoro, secondo me, per una ragione molto, molto trasparente, cioè per il rapporto che viene instaurato da Locke fra terra e persona. Proprio terra, persona, perché la proprietà alla quale pensa Locke, insomma, è la proprietà della terra, no? Innanzitutto la proprietà della terra, insomma, gli interessano le fences che si stanno costruendo, no? Le recinzioni che si stanno mettendo, quello gli interessa. E quindi questo rapporto fra proprietà e lavoro nasconde il rapporto terra-persona. Questo rapporto terra-persona poi avrà, qui ovviamente faccio semplicemente delle piccole indicazioni su percorsi più complessi, insomma, troverà altra testimonianza successiva, perché poi queste cose, tornano a distanza ciclica di secoli magari. insomma, le riflessioni in forma diversa a seconda delle condizioni materiali del momento, in tutte le dottrine della biopolitica. Solo che, insomma, tutte le riflessioni sulla biopolitica, da Hannah Arendt ad Agamben e ad altri, insomma, solo che adesso il problema è come fondare una teoria biopolitica quando ci va via la terra da sotto i piedi. Ecco, questo è un punto estremamente delicato. Se veniamo adesso al libro di Laura, insomma, ecco, che mi ha stimolato un po' tutte queste considerazioni, di Laura Ronchetti, io avevo qui, mi ero segnato tre passaggi soltanto fra i molti, insomma, che sarebbero meritevoli di una qualche riflessione più attenta. Anzitutto la questione, è stato detto prima, della Costituzione come controcondotta. E mi convince molto questa immagine della Costituzione come controcondotta. E c'è un passaggio che però va forse chiarito. Qui a pagina 118 scrive Laura Ronchetti: il soggetto costituente è tale solo se mosso da una controcondotta. Per opporsi al potere accentrato deve trattarsi di una condotta ispirata alla diffusione del potere. Ecco, questa formula è condivisibile, però che cosa c'è? Cioè, quali sono i suoi esiti? Perché questa idea della diffusione del potere può condurre ad esiti totalmente differenziati. Si può esaurire nel reclamare il suffragio universale. Questo è l'esito, diciamo, Terza Repubblica. Ecco. Questo è il suffragio universale, ci basta questo. Oppure può essere tutt'altra faccenda. L'impressione abbastanza trasparente è che per Laura Ronchetti sia qualche cosa di più e di diverso, e più avanti credo che si trovi una risposta, qui pagina 159, quando si parla di costituzione di principio di uguaglianza e di costituzione di principio di uguaglianza che si nutrono di una accezione positiva di limite, ritorna nuovamente il topos del limite al potere, che consiste nel riconoscimento dell'eguale dignità sociale di tutti. Limitando il potere si aspira alla sua diffusione, nuovamente, tra tutti in eguale misura. Ma anche qui, tutti in eguale misura, che potere si deve diffondere fra tutti in eguale misura? Perché se fosse semplicemente il potere di indicare un rappresentante, ricadremmo nuovamente nell'idea secondo la quale il suffragio universale sarebbe l'alfa e l'omega di ogni iniziativa politica del costituzionalismo. E devo dire che, ecco, in alcuni scritti di Rosanne Vallon questo è mostrato in modo chiarissimo, c'è stata tutta una fase del costituzionalismo continentale in particolare che ha ritenuto che la lotta per il suffragio universale fosse la lotta per eccellenza, insomma, fosse la lotta per i diritti, fosse la lotta per la democrazia, se tutto si esaurisse nella lotta per il suffragio universale. Mentre invece penso, e anche se qui forse sarebbe meritevole di qualche svolgimento e approfondimento ulteriore, mentre invece penso che sotteso a questa riflessione di Laura Ronchetti sia la posizione di alcuni nostri maestri. Penso a Crisafulli o a Esposito, che immaginavano una sovranità una sovranità popolare che fosse di tutti e di ciascuno, insomma, ecco, che i diritti fossero strumenti di esercizio di sovranità popolare, che la sovranità popolare non si esaurisse nei diritti politici, ma trovasse espressione e manifestazione anche in altre occasioni, anche quotidiane. Infine, e forse questo è il punto più delicato, il tema dei diritti fondamentali. Questo è perché il tema più delicato? È il tema più delicato perché nell'era della globalizzazione, della deterritorializzazione, della delocalizzazione, il tema dei diritti ormai è declinato nella chiave della tutela multilivello dei diritti. Allora io su questo non voglio ammorbare ulteriormente con la critica che io ritengo di muovere, radicale, diciamo, che ritengo di muovere alla dottrina della tutela multilivello dei diritti, che non mi convince, e non voglio, visto che molti di noi, insomma, non sono in uno stato d'animo particolarmente positivo in questo periodo, e non voglio neanche soffermarmi troppo sul mio pessimismo riguardo al tema del dialogo tra le corti, ecco, che non intravedo. diciamo, alcuni recenti episodi, insomma, soprattutto di giurisprudenza comunitaria, oltre che di giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, mi lasciano dubbioso sulla effettiva volontà o capacità o possibilità che questo dialogo tra le corti sia praticato. Diciamo, il tema dei diritti è davvero un tema assolutamente centrale, perché la posizione che si nutre sui diritti fondamentali in questa particolare fase sviluppo del costituzionalismo, secondo me distingue proprio i costituzionalisti, li mette da una parte o dall'altra. Qui Laura Ronchetti ci dice questo: i diritti fondamentali, questo è nell'ottavo capitolo, l'ultimo, no? I diritti fondamentali, scrive, traggono la loro forza dal riconoscimento della pluralità, della molteplicità di altri con cui entrare in relazione e interagire, perché solo nell'incontro con gli altri il nostro ipotetico potere si trasforma in semplice possibilità. E poi prosegue sulla stessa falsa riga, nella pagina successiva ci dice: vabbè, il potere illimitato non è libertà, ma questo, insomma, sono acquisizioni ormai risalenti, e sarebbe qualcosa di agiuridico, anomico, eccetera, eccetera. Ecco, però qui il punto è questo. Basta il riconoscimento della molteplicità, il riconoscimento della pluralità, basta il fatto che si entri in relazione e si interagisca con altri, oppure occorrono dei soggetti sociali che medino questa interrelazione tra me, gli altri e tutti noi? Insomma, il tema è: l'interrelazione tra gli individui è sufficiente? La mia risposta è no. Allora, è no. Non credo che il saldo della democrazia italiana sia positivo dopo la lotta antipartitica, insomma, dopo la polemica antipartitica, dopo che come dire, l'antipartitismo si è ha travolto, insomma, la cultura giuridica anche italiana, non soltanto dei teorici della politica o dei politologi, insomma, la cultura giuridica italiana, e si ha portato con sé una deriva antiparlamentare e alla fine anche antipolitica. Io personalmente ritengo che qui ci sia un pezzo di analisi che va ulteriormente approfondito. Non era questa la sede, ovviamente, insomma, perché il libro è dedicato ad altro tema, cioè quello dei soggetti sociali che possono consentire a questo dialogo fra gli individui, non parlo di persone appositamente qui, questo dialogo tra gli individui di diventare fruttuoso e di far sì che questo dialogo poi si trasformi in esercizio di sovranità. E allora il tema vero, mi pare, ecco, se si vuole lavorare all'interno di uno spazio ancora definibile, che è lo spazio di una politica nazionale, che ancora esiste al di là delle apparenze, perché attenzione, molte decisioni che ci appaiono decisioni che arrivano chissà da dove, insomma, sono invece decisioni volute e condivise da governi nazionali, e questo bisogna stare molto attenti. Ecco, se ancora c'è un senso per un'iniziativa politica, bisogna vedere come questa iniziativa politica possa passare attraverso la costruzione di soggetti sociali che possono fungere da mediatori per quel processo di integrazione che è essenziale per la sopravvivenza di una società pluralistica. Comunque, il libro mi è piaciuto. Basta. Grazie moltissimo anche al professor Luciani. Do la parola al professor Ferrara. Io starò zitto durante la allocuzione del professor Ferrara. Sono disciplinato. Tu? Disciplinatissimo. Perché forse non avrai da obiettare alcunché. Io vi deluderò. Io vi deluderò molto, perché credo di dire qualche cosa di interessante soltanto quando non condivido quello di cui si parla, ecco. E questo non è il caso. A me questo libro è piaciuto molto. Qualcuno potrà dire: ah, sì, si capisce, eccetera, eccetera. No, mi è piaciuto molto, e l'ho visto farsi questo libro non soltanto con le righe delle pagine che poi hanno costituito i capitoli, sui quali capitoli poi è tornata più volte Laura Ronchetti, ma l'ho vista nascere, crescere e farsi nella testa di Laura, nella testa, perché me ne parlava. Ha avuto il torto e ha commesso l'errore di parlarmene. Io l'ho visto farsi e devo dire che il farsi di questo libro è stato molto duro, molto anche sofferto, molto elaborato, infatti, la linea che verge, però è stato sempre lineare questo farsi, sempre lineare. Cioè lei in testa l'aveva questo libro e via via, tratto da quelle che aveva in testa sulla base di un'informazione molto ricca. I libri che lei cita sono libri che lei ha letto, da cui ha tratto suggerimenti, ha tratto motivo di contestazione, ha tratto soprattutto motivi di riflessione. E questo libro mi è piaciuto anche per una ragione che è di fondo. Non è un libro che Giannini avrebbe chiamato contenitore di un raccontino, no. Il raccontino, che voi sapete, è stato un genere letterario tra i giuristi. Cioè si prendeva una legge e si faceva il raccontino della legge. Si prendeva una sentenza, una qualunque sentenza, purché della Corte Costituzionale, e si faceva il raccontino della sentenza, comparando le espressioni, le formule della sentenza che si commentava con tutte le altre formule delle sentenze, delle ordinanze e forse anche dei decreti che venivano emessi dalla Corte in quella sede. E questo non è un libro di quel tipo là. Allude, richiama temi di fondo, richiama il limite. E io, quando ho visto che questo richiamo insistente sul limite, che poi percorre tutto il libro, era il richiamo del tema che costituì sostanzialmente poi la ragione di fondo per cui io, essendomi iscritto a giurisprudenza, cominciai a frequentare le lezioni di giurisprudenza e cominciai ad appassionarmi al diritto. Ricordo la prima lezione di diritto costituzionale che aveva come tema il diritto è limite, fu una lezione lunghissima, forse l'unica lezione che poi... Come? Il diritto è limite, ma è illimitata la lezione. La lezione era illimitata, lunghissima, e fu forse l'unica lezione che io ho ricevuto dal professor Tesauro, del quale sono stato poi allievo. Mi ha ricordato questo e insomma mi ha poi posto il problema di che cosa sia la questione di cui oggi ci occupiamo, che è successo al mondo. Questo libro ci dice che cosa è successo al mondo, ci invita a riflettere su quello che è successo al mondo, sul mondo sul quale noi possiamo rivolgere e dobbiamo rivolgere la nostra riflessione. Il limite come espressione poi del potere, il limite come manifestazione delle ragioni della convivenza, il limite che sta a significare non soltanto potere ma significa anche possibilità di assicurarsi rispetto al potere altrui o a quella frazione di potere che è degli altri che convivono con noi. E dove convivono? E dove convivono questi altri? E convivono in un dato territorio, sulla terra. Su una terra che in quanto tale ha o ha avuto il limite. Insomma, questo libro richiama i temi di chi pone le norme, i temi del potere, i temi della convivenza, come organizzata giuridicamente, il limite. E si sa perfettamente che limite è già il termine attraverso il quale il potere si è manifestato. Insomma, Zeus nel momento in cui condannava ad essere legato ad una roccia e ad essere poi roso nel fegato, Prometeo, in quel momento Zeus indicava il limite oltre il quale Prometeo non avrebbe dovuto andare. E Iupiter romano era il signore dei termini. Giove, Iupiter termine, come Iupiter pluvio. Queste cose sono più attuali. Che cosa c'è dopo, perché siamo dopo Behemoth e dopo Leviathan? Che cosa c'è? Che cosa è accaduto? Non c'è più Behemoth e non c'è più Leviathan. Il nomos è infranto, titola Laura Ronchetti. È infranto questo nomos, e in che cosa questo nomos infranto si è poi tradotto? I frantumi quali sono? Ci sono questi frantumi? Dove sono questi frantumi? I frantumi ci sono e sono i nodi del network. I nodi del network che sono i frantumi del potere normativo, il potere che era annidato nel nomos. Questi nodi sono quelli che avvolgono e nell'avvolgere comprimono la distesa degli individui che ormai costituiscono gli abitanti del mondo. A queste questioni, a questo tema, a questa realtà e a questi problemi richiama questo libro. E io credo che proprio sia questo il compito del giurista del XXI secolo, se no di che cosa parla? Di che cosa può parlare se non arriva a questi livelli di riflessione da cui trarre poi linfa, sollecitazioni e argomenti per elaborare una teoria giuridica che sia adeguata allo sconvolgimento che la fine del XX secolo, l'inizio di questo secolo, ha determinato nella storia del mondo. Se non si affrontano questi temi diventa difficile capire quanta forza ha la lex mercatoria. Diventa difficile capire per quale ragione, oggi come oggi, i liberisti che hanno esaltato la seconda svolta degli accordi di Bretton Woods, oggi i liberisti si richiamano alla necessità di interventi di pubblici, di forza pubblica, di autorità pubblica, per regolare che cosa i mercati che avrebbero dovuto autoregolarsi e che non trovano più chi li regola, visto che è fallito il tentativo dell'autoregolazione. Basta leggere quelli che scrivono gli esperti di politica economica mondiale. A questo punto, con lo Stato che ha delegato ad altri organi il potere, delegato alle organizzazioni sovranazionali, ha delegato il potere suo alla Banca Mondiale, al Fondo Monetario, all'Organizzazione Mondiale per il Commercio, ha delegato il suo potere alla Commissione alla Commissione europea e agli organi che fanno corona a questo organo, che non ha alcuna legittimazione democratica, come sappiamo, e che si legittima soltanto sulla base di una normativa che si astrae da ogni ulteriore controllo di tipo democratico. Ecco, di che parleremmo se non di questi temi per poter noi affrontare le questioni di fondo della convivenza nel XXI secolo? Ecco perché mi è piaciuto questo libro, che ha anche un altro merito. È scritto in modo molto scorrevole, molto scorrevole. Si legge molto scorrevolmente. Non ha nodi, non ha espressioni, diciamo, tanto tecniche da essere poi oggetto di interpretazione magari di qualche altro libro. Ed è anche un libro che secondo me può inaugurare un processo di rilegittimazione, di rigiustificazione del termine del diritto, di quello che noi sappiamo essere il diritto e della sua funzione sia regolatrice ma soprattutto emancipatrice dalla forza, dall'arbitrio, dalla ingiustizia che a tuttora e sempre più nel mondo appare come la tabe che uccide nell'umanità il senso etico e il senso sociale. E io a questo punto sono a ringraziare Laura Ronchetti per avermi dato la possibilità di seguire questo lavoro e di avere imparato qualche cosa che mi sfuggiva evidentemente. Grazie. Ringrazio anche il professor Ferrara. Adesso, visto che sono le 7:20, quindi c'è ampio tempo, prima di passare la parola all'autrice, se ci sono domande, questioni, visto che appunto i relatori hanno sollevato alcune questioni per l'appunto, quindi ripeto, prima di far rispondere Laura, se qualcuno vuole intervenire c'è tutto lo spazio. Ugo, stai pensando a qualcosa che tu stai per dire? Salvatore, non c'è nulla da dire tu. No, io sono venuto ad ascoltare la mia dice. No, io sono venuto ad ascoltare. Quella faccia che c'hai. Sai, ognuno fa quello che vuole. Sì, è no, guarda, a me ha detto di no, ma ad autorevoli rappresentanti del potere giudiziario, oltre che del diritto internazionale, oltre che di tante altre cose, tu non puoi non ma dunque, no, questo libro è stato discusso nel dottorato di diritto pubblico e diritto costituzionale alla facoltà di giurisprudenza e lì ho detto alcune cose. In particolare ho detto, per me il libro si divide in due parti, la parte, come dire, ricostruttiva, che io condivido pienamente, che è piena di insegnamenti, cioè dove Laura Ronchetti spiega analiticamente attraverso quali mezzi e quali strumenti lo strapotere del potere economico distrugge progressivamente ogni barriera territoriale, rende sostanzialmente impotente la stragrande maggioranza degli stati. Dico la stragrande perché secondo me non si può dire tutti gli stati. E appunto giustifica la domanda che molti di noi si stanno ponendo provocatoriamente, penso qui a quello che ha detto Gaetano Zariti a Napoli, ma c'è un futuro per le Costituzioni, perché appunto se la Costituzione deve essere, la Costituzione politica, un limite a un progetto che riesce a governare l'intera società, qui c'è un potere che è sempre stato, come dire, alieno rispetto al potere politico, però abbiamo vissuto un lungo periodo forse di illusione, ma sicuramente la nostra Costituzione quando fu approvata aveva chiarissima l'impronta, l'idea che percorre tutti gli articoli, basta insomma leggere tutta la prima parte della Costituzione, il potere politico domina sul potere economico, lo controlla, lo organizza, tant'è vero che è prevista la programmazione, le nazionalizzazioni, non c'è dubbio insomma che questa è l'idea dei costituenti, ma non è solo l'idea dei costituenti, era un'idea talmente forte che negli anni 60 appunto si parlava della programmazione nazionale, c'è stata una legge di programmazione nazionale, cioè c'era l'idea insomma del potere politico che senza togliere la libertà di iniziativa economica, il mercato, però riusciva a governarlo e quindi a indirizzarlo secondo il progetto costituzionale che poi è riassunto sinteticamente nel secondo comma dell'articolo 3, cioè la Repubblica deve promuovere eccetera eccetera. E questo è totalmente distrutto, non c'è. Insomma, pensate al grottesco della vicenda all'Italia. Non so se è chiaro, insomma, la vicenda all'Italia per me negli anni 60 era impensabile. Cioè è chiaro che il potere politico sarebbe intervenuto, insomma, avrebbe stanziato i miliardi che erano necessari e non avrebbe rinunciato minimamente. Insomma, l'impotenza, attenzione, l'impotenza del governo attuale, il quale chiaramente ha detto io non posso fare niente, speriamo che Air France se la compri, no? E anche la cialtroneria degli altri che hanno giocato spudoratamente in termini, ma adesso voglio vedere cosa fanno questi altri. Cioè intervengono, sono capaci di... No, non hanno più gli strumenti, perché se ci provano, se minimamente ci provano, dico, hanno contro tutto, il Fondo Monetario, l'Unione Europea, la Banca Europea, cioè lo Stato, la stragrande maggioranza degli Stati sono strangolati. Però non è vero che tutti gli Stati sono strangolati. Meno uno. Ma io direi meno due, meno tre, guardate, perché insomma potete immaginare qual è il mio giudizio sulla Repubblica Cinese. Mi rifiuto anche di dire popolare perché mi dà fastidio parlare, usare questa parola. Si chiama popolare però ufficialmente, lo riconosco. Però sicuramente non è un boccone facile, insomma. No, questa è proprio una constatazione. Non credo neanche che la Russia in realtà, dopo questa terribile crisi che ha vissuto, sarà un boccone facile. Era appunto questo poi il tema che avevo sviluppato, lo dico molto rapidamente, cioè noi rischiamo di non vedere, di non sapersi collocare esattamente perché stiamo in un buchetto sostanzialmente, molto ridicolo e molto grottesco, che è l'Italia, insomma, la Repubblica Italiana. Secondo me paese senza futuro e senza dignità che insomma galleggerà, io spero di no, ma insomma sono molto pessimista, ma cosa conta? No, ma no, galleggerà in qualche modo, galleggerà, ma sì, galleggerà, non abbiamo neanche la grandezza dei grandi scelte, in realtà secondo me, ma non è qui, appunto se noi cerchiamo di capire le cose del mondo da questo buchetto, io credo che non capiamo letteralmente niente. Io l'unica cosa che riesco a vedere, ed è perciò che nella parte positiva, per esempio, io Carl Schmitt proprio, mi rifiuto di parlarne proprio, mi dà fastidio, ma guardate non è una cosa di oggi, è una cosa proprio fin dall'inizio, insomma, lo studiavamo negli anni 60, comunque ognuno poi si sceglie come dire, perché il linguaggio condiziona pesantemente. Io proprio non trovo nessuno stimolo positivo in quel modo di parlare, in quel modo, perché mi pare, insomma, anche il famoso stato di eccezione, guardate, è un altro degli imbrogli e dei marchingegni concettuali per nascondere la banalità. La banalità, la sovranità, ma che cos'è la sovranità? Ma signori miei, è semplicemente il fatto che puoi disporre della forza armata, tutto lì, ma lo vuoi fare mettere questa forza armata? Allora, un sovrano c'è, e guardate che è un sovrano serio da questo punto di vista, perché avremo tutte le critiche da fare, ma il Presidente degli Stati Uniti ha davvero la valigetta in mano della bomba atomica, e non ci scordiamo questa cosa qui. L'esercito si muove se il Presidente lo dice, torna indietro se il Presidente degli Stati Uniti, e il potere economico americano, che pure è fortissimo, però da questo punto di vista non discute, insomma, ma per questo è costitutivo dello Stato moderno, cioè da Hobbes in poi... Il capitalismo ha capito perfettamente che l'unico modo per garantire la concorrenza economica era spogliare tutti i capitalisti del potere armato, perché altrimenti era la guerra, non soltanto la guerra economica, ma la guerra col sangue. Il potere politico, cioè il potere armato, è concentrato. Noi non ce ne rendiamo conto perché siamo un paese che non conta nulla, ma gli Stati Uniti contano, insomma, gli Stati Uniti contano. E lì il potere politico e il potere armato, la sovranità. E non è lo stato di eccezione, ma quale stato di eccezione? Cosa vuol dire lo stato? Certo che lo stato di eccezione è una conseguenza. Se io ho il monopolio della forza armata, ho la possibilità materiale, e se necessario la uso, di rompere qualsiasi regola. Questo è il punto vero. Cioè il Presidente degli Stati Uniti, la possibilità di rompere qualsiasi regola ce l'ha in questo momento, perché è sicuro, siamo tranquilli, può anche succedere di no, ma deve essere una rottura violenta. Se il Presidente degli Stati Uniti ordina alle forze armate di fare qualcosa, le forze armate obbediscono tranquillamente. Scusi, però, se il Presidente degli Stati Uniti, io sono una proposta del tutto non ha dietro chi lo ha eletto, cioè il petrolio, chiunque sia, sì. Se non ha una forza economica, non è solo l'esercito. Ma non importa, la forza delle... Ma appunto, ma però, però è la ricognizione dell'esistente. Il problema è l'istituzione Presidenza degli Stati Uniti, funziona o non funziona? È qualcosa scritto sulla carta. Poi le ragioni per cui funziona, ognuno dirà le sue perché funziona. Io però constato che funziona, c'è, cioè lì c'è un potere politico che funziona ed è appunto il sovrano da questo punto di vista, nel senso che dispone della forza. Poi naturalmente, siccome è un potere istituzionale, non è che ne dispone arbitrariamente, quindi ritorna di nuovo alla Costituzione, per quanto sia, però c'è questa concentrazione di potere, questa individuazione del potere. Allora la mia conclusione è: di fronte a questa situazione, a me pare che quello che sta emergendo è, dico, l'unica forma che riesco a immaginare per un'umanità che non vuole suicidarsi in qualche modo, che non vuole arrivare alla guerra atomica, che vuole appunto in qualche modo controllare movimenti altrimenti incontrollabili, perché voglio dire, se il prezzo delle materie prime alimentari aumenta ancora, tra un po' avremo veramente sangue, ovviamente, perché di fronte alla fame, a milioni di persone che hanno fame, è ovvio che sappiamo cosa succede, è inevitabile, se io sto morendo di fame farò di tutto, compreso anche rischiare la morte, ovviamente, perché morire per morire, cercherò di assaltare i forni, allora è un problema mondiale, ovviamente, questo qui. Quali sono le possibilità? E questa è la mia critica alla Pars Construens, se l'ho capita bene o non l'ho capita per niente, ma secondo me quello che sta emergendo con chiarezza sono appunto la necessità che di fronte a un solo dominante, in realtà l'alternativa non è quello di creare un mondo di potere diffuso, perché non ci credo per niente, non funziona minimamente, è in realtà creare appunto una costellazione di grandi spazi, è vero, di grandi poteri, che siano capaci di contrattare, siccome diventano uguali, in qualche modo possono contrattare alla pari. Il contratto si basa sull'eguaglianza, non funziona infatti quando le parti sono troppo diseguali. Allora, l'Unione Europea, che cos'è l'Unione Europea? È un tentativo, a mio avviso, da questo punto di vista perfetto, nel senso, cioè, che non mi importa niente se ti hanno stato ferrato o no, non è questo il punto. L'Unione Europea è l'organizzazione che ha permesso e permette agli Stati europei, che da soli sono debolissimi e alcuni proprio non contano nulla, ma la stessa Germania, che pure forse potrebbe reggere da sola, di in qualche modo entrare in questa contrattazione con una forza contrattuale paragonabile a quella degli Stati Uniti, paragonabile a quella della Repubblica Popolare Cinese. Nel Sud America non avviene la stessa cosa, cioè la tendenza non è la stessa in questo momento. Nel Sud America non tentano di fare una sorta di unione, Chavez, tutti quanti in realtà, Lula, stanno chiaramente, hanno capito che se diventano il cortile di casa, adesso il cortile di casa degli Stati Uniti, non c'è salvezza per loro. Attentano allora, ecco, io questa è la prospettiva che vedo, e dico, questa è l'unica idea che mi viene in testa, cioè in realtà un recupero inevitabile di forza politica, di potere politico, che in qualche modo, condizionato pur sempre dal potere economico, riesce però a porre appunto le questioni politiche che comunque debbano essere risolte. La questione politica fondamentale è ovviamente quella della guerra e della pace, perché altrimenti se andiamo in questa direzione, o prima o poi, io credo, avremo di nuovo il pericolo, la guerra atomica. Noi non dobbiamo dimenticare che esiste sempre la bomba atomica e che io non mi fido assolutamente, sono convinto che se gli Stati Uniti fossero sicuri del primo colpo senza avere una ritorsione, loro avrebbero già e la useranno tranquilla. No, questo non ho dubbi, che quel potere lì. Quindi l'unica possibilità è che ci sia un potere, una tale massa di potere alternativo, per cui alla fine debbono mettersi d'accordo sostanzialmente, debbono contrattare, e per contrattare bisogna avere una forza contrattuale. E quindi spero che ci siano 6-7 grandi macro aree nel mondo che sostanzialmente organizzano tutto, quindi a questo punto la fine degli stati nazionali sostanzialmente, o dei piccoli stati, come è giusto che sia, perché non possono reggere. Questa costruzione, queste costruzioni sovranazionali, non è il governo del mondo da questo punto di vista, non è l'unico governo mondiale, perché mi pare che siamo lontanissimi. È, come dire, una prospettiva tutto sommato non eccezionale, potrebbe reggere, la vedo come l'unica possibile, potrebbe reggere per un secolo, si spera poi che tra due secoli invece arrivi qualcosa di meglio. Questo punto è veramente abbastanza tardi anche. Allora, io innanzitutto devo ringraziare tantissime persone, vabbè, prima ancora delle singole persone, la Fondazione Basso nel suo insieme, che ha messo a disposizione l'organizzazione, la disponibilità a parlare di questo libro, il che mi ha commosso e mi commuove tuttora, l'organizzatrici, i relatori, Enrica Arrigo, il professor Luciani, il professor Ferrara, nonché Chiara Giorgi, che è un po' l'ideatrice di questo incontro, e poi tutti coloro che mi hanno aiutato anche nell'elaborazione di questo mio scritto. I suggerimenti, le osservazioni sono state tantissime, i complimenti soprattutto eccessivi, veramente siete troppo buoni. Dal professor Ferrara sì, l'aspettavo, effettivamente. Però anche io non voglio togliere troppo tempo, però vorrei rispondere ad alcune delle osservazioni, o meglio dei suggerimenti, anche delle indicazioni per futuri sviluppi anche delle mie ricerche. Io direi che tutto sommato potrei tentare di abbozzare una non dico una risposta, ma insomma una riflessione intorno a queste questioni che sono state sollevate, proprio partendo da quella che è un po' la concezione, l'idea di Costituzione che volevo esprimere attraverso anche lo studio delle istituzioni della globalizzazione, perché in fin dei conti la mia ricerca si muoveva proprio sul tentativo di voler mettere in luce le differenti proposte di senso, da un lato quella diciamo riconducibile al diritto delle costituzioni, dall'altro quello della globalizzazione. Se la seconda, la globalizzazione, propone un vorticoso superamento di ogni limite a partire da quello costituzionale con tutto il suo portato politico e territoriale, dall'altra parte invece mi premeva mettere in evidenza come invece il diritto la Costituzione, l'idea di Costituzione che provo a delineare nel libro, parta proprio dall'idea che da un'eccezione positiva di limite che consente appunto di aggredire in qualche modo il potere di fatto e trasformarlo in diritti. trasformandoli in diritti, fa sì che il potere trovi una nuova forma di legittimazione, proprio una legittimazione basata su la diffusione del potere tra tutti i consociati. Quindi in realtà mi sembra che in effetti la maggior parte delle questioni che sono state poste più o meno toccassero tutto, almeno tangenzialmente, un po' il concetto di potere, ma poi soprattutto l'idea di Costituzione. Io non so quanto, cioè l'idea che mi ha spinta è un po' quella appunto che il diritto costituzionale, in particolare le Costituzioni, quindi i movimenti anche per ottenere le Costituzioni, si caratterizzino per questo appunto, il tentativo di aggredire il potere e trasformarlo attraverso la Costituzione in diritti costituzionali, appunto, quindi in diritti concepiti come quote individuali di potere, come però dice anche la nostra Costituzione. Chiaramente la quota individuale non vuol dire che è agita solo individualmente, ma anche nelle formazioni intermedie, cioè i diritti costituzionali appartengono ai singoli e alle formazioni intermedie, e ai singoli in primo luogo proprio perché partecipano delle formazioni intermedie. Ma d'altra parte tutta la tanto sono convinta che servano i soggetti, tanto invece tutto il mio ragionamento parte da questa proprio sentimento di inevitabilità di ragionare sui soggetti, che non a caso scelgo la parola controcondotta. La scelgo proprio perché quando l'ho letta mi ha colpito tantissimo, proprio perché finalmente mi consentiva di trovare un, a proposito di linguaggio, un linguaggio che restituisse l'importanza del soggetto nel momento in cui vuole agire diritto. Quindi volevo andare al di là della semplice, o meglio, più che andare al di là, nell'ambito della concezione controfattuale del diritto mi premeva sottolineare l'importanza del momento politico, quindi del soggetto che decide di porre in essere una determinata azione, però non soltanto nel momento in cui rivendica la Costituzione, e qui torna il rapporto tra potere costituente e potere costituito, che sicuramente la mia idea di Costituzione non è che gioca con questa ambiguità, ma è proprio intrisa da questa ambiguità, perché quando la mia idea di Costituzione necessita necessariamente un ragionamento sul potere costituente, però allo stesso tempo non si esaurisce con la Costituzione, ma è una condotta che la Costituzione stessa, per l'idea che ha, proprio per il suo carattere normativo, è una condotta che deve essere per il futuro. Quindi è sicuramente una condotta necessaria nel momento in cui si pone la Costituzione, ma la Costituzione non è la fine di un percorso, è l'inizio di un percorso, da un certo punto di vista. E soprattutto quindi la condotta è necessaria per il futuro, perché effettivamente, come ha detto il professor Luciani, in realtà i diritti, la sovranità è proprio l'esercizio dei diritti, e la Costituzione si può far vivere soltanto esercitando quotidianamente i diritti. Solo in questo modo possiamo resistere in qualche modo alla tendenza, che io credo sia assolutamente inevitabile, per qualche modo, anche in qualche modo inarrestabile, di riconcentrazione del potere. Allora, questo limite, questa accezione positiva che dovrebbe, che secondo me è già insita nell'idea di Costituzione, che io provo a rilanciare con nuove parole, magari proprio per non riproporre, diciamo, quella che è una dottrina che sicuramente per tanti versi è strettamente collegata al concetto di Stato, quindi a tutto quello che è riconducibile alla dottrina dello Stato, proprio perché il mio intento era ragionare sulle forme della convivenza, al di là della forma statuale, sempre in termini giuridici, quindi sempre in termini di rapporto tra ordinamento, cioè avendo ad oggetto l'ordinamento, ma una determinata accezione di ordinamento, e nell'accezione di ordinamento che faccio mia non posso prescindere dal territorio. Ora, che cos'è il territorio? Forse questa è la domanda, che altro. Io parto dalla delimitazione territoriale, ma non per dire che è sufficiente la delimitazione territoriale, né per negare il carattere fortemente prepotente che storicamente ha avuto il confine statale, prepotente, arrogante, minacciante, ma per mettere in luce l'altra, invece, accezione della delimitazione territoriale, che secondo me è comunque un primo paletto per la riconcentrazione del potere, ma è anche qualcos'altro, anche dal punto di vista simbolico, ma non solo simbolico, è effettivamente quella linea di separatezza che rende possibile anche il riconoscimento. È chiaro che il riconoscimento non è mai qualcosa di scontato, ma come non può essere scontato la validità della Costituzione. Cioè, siamo qui a dirci che la Costituzione, l'idea di Costituzione, almeno per come la intendo io, è in crisi, e quindi a maggior ragione chiaramente anche l'azione di riconoscimento è sempre messa in crisi, perché comunque si nutre della stessa idea, io ritengo, di limite. Allora, se il riconoscimento invece, secondo me, se poteva sembrare, mi dispiace, non si basa tanto sulla filosofia dello scambio e quindi diciamo su una concezione formale di parificazione tra i soggetti, ma invece si nutre proprio di un'idea di interazione tra diversi. E tra l'altro io faccio, forse non ho sicuramente sviluppato questa parte, ma in realtà nella letteratura filosofica di riferimento su questi passaggi è centrale proprio il concetto di dono, proprio in alternativa a un'idea di scambio, ma dono non nel senso insomma, si intende in questo caso un tipo di relazione che è basata appunto non semplicemente su un rapporto gerarchico, e quindi si sopraffaziona il tentativo di verificare qual è il rapporto di forza esistente, ma invece un tipo di interazione vista dal punto di vista della costituzionalista, caratterizzata appunto da una volontà di autolimitazione come accezione positiva. Cioè, la mia vuole essere un'operazione culturale, sono partita dal diciamo, mi sono convinta che la postmodernità effettivamente possa essere considerata l'epigono della retorica del superamento del limite, e io invece propongo che a partire dalla consapevolezza che la Terra è una, le risorse sono limitate e che tutti gli esseri umani che abitano il pianeta nelle loro meritevoli differenze sono ugualmente degni di partecipare alla convivenza su questo pianeta e delle sue risorse, e se questa consapevolezza deve appunto favorire un ripensamento del concetto di limite nella sua accezione positiva, cioè come qualcosa da valorizzare, da non sentire in qualche modo come qualcosa che come una forma di menomazione, ma anzi come una forma di liberazione. La libertà appunto non è il potere, la libertà è anche la capacità di autolimitarsi, di riconoscere i propri diritti e in questo modo anche i propri doveri. Quindi credo con ciò, chiaramente con ciò quindi implicitamente rispondeva alla domanda se ci si ferma solo al suffragio universale. Chiaramente no, il suffragio universale è uno degli strumenti poi storicamente tra l'altro più conosciuti, ma forse ce ne sono di nuovi che si potrebbero scoprire. Non so se mi è rimasta in evasa qualche domanda, qualche interrogativo. Il professore Scigno dice potere diffuso o no, costellazione per grandi spazi. La costellazione per grandi spazi, io provo di dire, è proprio quello che effettivamente si sta delineando. Allora bisogna capire però le convivenze all'interno di questi grandi spazi e tra i grandi spazi da cosa sono caratterizzate, se sono caratterizzate da espressione di mero potere, come giustamente lei diceva, il potere di fare la guerra senza colpo ferire, o se invece vogliamo provarle a farle tornare o meglio, vogliamo provare a instaurare un altro tipo di convivenza, appunto che si basi sulla consapevolezza e la condivisione di uno spazio che è uno,